me ha bagnato di sì oggi, di oggi c'era la busta d'oro a bagnarsi, mi ha trascettato oggi, quindi sono campione avvisato, ma è acceso il computer, ed è tutto acceso in occhi, ah, ti ho preso, Te cuffo, che ero chi, oh, vai, ah, mi ha rubato il suo e pigliato, ehi, pronto, certo ti ho sentito, già osso. Mi ci avessi con un'antenna buona, Buru. Dove sei ingresso un assetto? Vicino a Graziano? Ciao, capo. Anche io sono qua, vicino a te, dai. No, sono di Fonzetta. Alla piazza, dai. Ho capito, scusa. Ho detto, piazza Dettori. Piazza Dettori. Eia. Eia. Ma non so da che raggio, Gio Marie. Vabbè, io tanto troppo andato. Pare qualcuno sta più tardi. 5, questa. Che cosa? È un disciuro. Ma chi è? È possibile. Ma non è proprio. È un confesso. Ah, ho capito. Vabbè. Già va bene allora, dai. Allora chiamata qui di Graziano. Ho capito. Vabbè. Qual volare no, mi viene dalla barca. Boh, ma inteso un attimo. Ah, ho capito. No, mai sentito. Prova a telefonare alla Graziano e dirgli di. Chiamalo su WhatsApp. Ciao ciao. Ah oui. Oui. Beh, ancora per la moglie se a posto d'ora giù. Vabbè. Le orecchie ti hai chiuso, ti hai tappato. Se a per la moglie ancora sei in mare. Tu glielo puoi fare. E ora per la forza fare tutta questa parata. Sì, la conosci questa strada, mi l'hai fatta più di una busta. A pararsi farà bene. A stai! Che pesante, poco poco. Ma poi ci rimancare lì dall'altra parte. Allora l'hai speso tutti lì da oggi, dai piso, no? Tu, e domani è un dai, di là. Ehi, li dirà andare a tornare, cazzo in affitto. Va! Impulsate che si magna, ma ci ho pigliato una salsiccia buona, fresca fresca, la benessa, e la cicamona, e ci ho pigliato roba, a pochi di là. Ah, allora già era pieno, un po' c'affoglio su Manzano, a dire, già era pieno, un po' c'affoglio, così è. E vai. Si grino sa giù visto. Ma ti sei guato però questo manzano. So che ci dove andare a tra bossa e non veri più. Ma tu che ci sei guato appena che avvicci a me, ti metti a sentire pure per di là. Che è vero. Oh yeah. Cantene bigorre, cantene. Oh. E gli vive un amatore veramente CB, eh! 3 miliardi, un ponte! Addirittura, io ce lo puoi pigliare tutti, sì, ma te no! Passano le macchine! A te ti sei vista, no? E a questo un casello, all'entrata e all'uscita! Aspetta un attimino. Luca si attaccherai. Ma già era Edlanzura io. No, mi parlavo di Giulia. A me pure mi paria. E tu va, piede Bargeccio lei a Graziano. Sono ancora incinato zicché nella sabonetta e non riesce a pigliarla. Rifugi da mano la sabonetta, capito? Bisogna andare da uno a fra via. E allora dici, c'è così cosa questa saburetta, una mano la piglia all'acqua zecce, dall'acqua si torna il cibo. Certo. Yeah, per carità. Quando vieni l'amico a dimmi più la vostra disini, me lo bevi. Ancora non l'hai fatta, certo. Sono andata a parlare del biglietto del tram. Il cane ci pagano ancora più poco, tutto l'anno. Beh, quanto hai pagato? L'anno passato ti saranno 18,50 euro. Quest'anno 13,50 euro. Andava. Capito mi hai? Ehi, a te. Bene, mi senti adesso? 1, 2, 3, 5, 6, 7, avanti. Aspetta, eh. Bene. Adesso sei uscito in mezzo al QRM. Ah, vero? Adesso lo sta uscendo. Spostaci tu, perché sei la posizione tua, Lo stai uscendo. Alleare. Bene, ci fa adesso. No, io non so che bene niente, io so che fai più fermo, so che fa vedere e basta. Prova a parlare, ma se poco fa sono fermo, ci si bene. Adesso l'ho spostato, prova. Ti sei spostato perché ti sento attratti. Adesso ti ho sentito bene. Cazzo, mi sentivi sempre bene, oggi mi senti male. Evidentemente, dai tabacci per calcolo i sedimenti. A chilometro temporale allora, vai a quell'inila, va. Bello bene, sì. Cos'è? D'accordo. Tito sei, Luca, bella me, Abizese, Marina, ciao me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fonda scala sei qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Ora 1, 2, 3, 4, non c'è manco stazionarmi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po', ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ola. Bebe, bello be, Antonello, Antonio. Dimmi, caro, cosa c'è? Cosa stai contando? Le pecore stavo contando. Ma ne manca una. Come mi stai ascoltando? Bene. Bene, chiasso e forte. E tu bene mi senti? Ehi, grazie. Aspetta un attimino. Ehi, io. Ciao Marina. Mangiando stai? Mica si chiama Gio Maria, non Gio Marina, mi. Cosa hai messo? Un nome di donna? Ha cambiato versione. Ah, versione studentesca che hai messo. Ehi, ti interessa la batteria per il PMR? Però io ho sbagliato e non va bene, è quella che dura 3 giorni, quella grossa. Non lo so se al tuo va bene. No, non penso, non lo so. Io c'ho l'attacco invece per quello per attaccare l'alimentatore. A posto, in pratica sarebbe la falsa batteria. Col cavetto l'attacco, l'accendi i sigari e funziona tutti i giorni, posso usare le batterie. Sì, c'ho anche io l'accendi i sigari, non posso attaccare l'accendi i sigari senza la batteria. Colui ce l'ho anche io, nel GT3. No, quello che ho io è il 6V5 R+, R+ in pratica. Va bene, solo per quello. Io l'ho ordinata per l'altro boyfriend UVRA5 E invece non andava, o hanno imbagliato gli imbecilli. Pensavo che magari al suo andasse bene, se no la rimando indietro. Più tardi li faccio lì miei. Pensavo che andava bene, perché quella più grossa, l'ordinata mi hanno mandato quella. Poi adesso quello lì non ce l'ho più, l'ho venduto. Oh, quello l'UVR5 Boyfriend. Già ho capito. No, non mi serve la batteria grossa, ce ne ho. Ne ho portate, già lo sai. Ce ne ho con la batteria normale. Ne ho 5 portatili, più i due VHF, un altro, poi c'è un Kenwood che fa VU, bibanda, ne ho apparecchi, grazie a Dio. Ma non apparecchiano, la batteria per non rispedirla indietro. Se va bene magari a qualcuno di quelli che c'hai tu, la vende va a te. Da me no, non ci arriva per 2-3 mm all'incasso. Perché è sbagliata la sagoma di quello che ho dato, capito? Nel GT3 è tutta diversa, è più lunghetta. Già ho capito, e cosa vuoi ti faccia? Io non so se vale bene anche per il mio, questo non te lo so dire, ma non mi serve la batteria grande, capito? Non mi serve, al limite rimandano indietro, gli dici che per il tuo apparecchio non va bene, che è sbagliato, e ti diano una batteria diversa. Faccio così, me la faccio mandare, intanto quello là me l'ho venduto, me la faccio mandare per questo, per il GT3, GT. Allora, GT3. Ho preso questo perché c'è la batteria più grande, dura 3 giorni, è da 3.008, quella là invece, quell'altro che ho dato, era da 1.008, una di direi a carico, anche se avevo quella del ricambio, mi rompeva le scatole, a ciamba sempre batteria, puni sempre batteria, sotto carico, almeno quella mi dura 3 giorni. Ah beh, quello sì. Vabbè. Già che l'ho visto che c'era con la batteria grossa, ho detto ma mi bisogna che c'è al limite me lo vendo. E però io l'avevo ordinata per quello con la batteria, ma oramai l'ho venduto, non ce l'ho più, capito? Al limite la rispedisco indietro e me la faccio mandare una per questo, del ricambio. Ma ti conviene fare così, guarda, intanto io non ne faccio niente, cosa me ne posso. Io ci ho portatili diversi, lo sai, c'ho l'888, ne ho due di quei portatili, con due caricatori, poi c'ho le due UV5 più plus, capito? Se fossero stati caricatori te l'avrei creato qualcuno anch'io, perché mi sono rimasti i caricatori di quelli che mi hanno rubato, di quei due portatili, che mi avevano fregato e poi non sono riuscito più a trovarli. Va bene, ti richiamo dopo che sto facendo una cosa. Ehi, io già acceso. Ciao Marina, ci sei? Sì, ci sono mattina. Eia. Luca, morto sei oggi. E beh, Mario. Ma non lo senta Mario, Antone. Ehi, l'ho conservato, Mario. Quello bisogna conservarlo. Che rimarca, è meglio quello di Ruspì, il più leggero. A Torello, chiedili se mi sente a Mario. Ah, se Mario, cosa? Grazie, cosa hai detto? Ho detto a chiedere a Mario se mi sente lui, io non lo sento. Se mi sente lui. Non penso ti senta, Mario, lo senti a Graziano. Non vi ascoltate, Graziano. No, non mi sente, no. Forse Graziano, ma tu dolori al polso avevi, mi pare, è vero? Cosa hai detto? Se ci avevi dolori al polso. Se era al polso. Se avevi dolori al polso. Ah, dolori al polso. No, Luca era che aveva dolori al polso. Ah, è Luca, Mario. Ma Luca non c'è adesso, quindi non posso dirgli niente, Mario. Al limite senta, glielo dico. Magari c'è l'artrosi come la tua cervicale e ha problemi per quel motivo lì. broioso. Bello bene. Va bene, quando entra già glielo chiedo, non ti preoccupare. Avanti, troioso. D'accordo, Mario. Grazie a Bianco un attimino, arrivo subito. Marco, a me. Mormito, sì. Bello bene. A me. Gio Maria, ci sei? Dormi, dormi. Ilu. Siamo 27 noi. C'ho 28, c'ho. Sai, 28. Come posso accendere adesso? Sto facendo cosa? Vai, vai. Fai. Sto facendo cosa? Al computer. A volta ci ho compreso, avete fabbricato in due. Al computer sto facendo cosa? Falla, E chi ti sta dicendo a farla? Falla. Ehi. E lui? Mi lu. C'è c'era tuo fratello in frequenza. Oh. No, stavo facendo cosa, non l'ho acceso stasera. E poi stamattina non c'ero. E sono con il tubuluzzardo. Sempre in giro così, bubbo. Sono andato a farmi qualcosa dal tram. Via Roma, la TP, poi mi sono sceso a Porta Torres, al mercatino. Ero con il radar di lui. Ho capito. Beh, vabbè, a fare cose, sei andato a fare visite, dai. Oh, avevo fatto la domandina per il coso del tram, per lo sconto, no? E l'ho pagato tutto l'anno. Se mi serve che devo prendere il tram, mi prendo il tram, capito? Se non posso andare in macchina a qualche visita o a Sassari, vado col tram, posso salire nel trenino. E ho pagato tutto l'anno. Perché poi da via Roma che mi danno quel foglio, devo scendere alla TP giù a Canica. E poi da lì me ne sono andato alle poste, in macelleria, lì alla Terolce, che c'era Giammaria, l'ha visto Paoletta. Ah, poi la carta d'identità di mia moglie l'aveva persa. Adesso voglio arrivare per posta, così mi ha detto, 27 euro. Ma quella carta d'identità poi vedi. Allora, se la peggi. Beh, è successo. Cambiato. Luca. Ho capito, sei sparito. Sono sparito. Sì. Mi senti? Adesso sì. Mi senti? Eia, tu mi senti a me? Sì, che ti sento, e tu? Sì. Mi senti tu? Ah, grazie, eia. Allora rispondi, no. Ma mentre parlavi sei sparito prima. Che vuol dire finito il termine? Quando sei un po' poi si manca, no? Pensavo avessi finito la batteria. Ehi, no. Una volta che parli più di contatto e poi si stacca da solo. Anche il tuo fa così. Via. Dopo che sei un po', si stacca. Sì, Luca. Beh, Luca Gufo. Ma chi sei sempre a posto, si può sapere, vengo io in trangoreggio. Luca non mi sente, mi dice sei sparito. Boh. Chi te lo dice? Forse gli è entrata l'acqua nella doccia, Luca. Ah, boh. Più mezz'ora già mendilo, ed era sempre incinato, non riuscì a pigliare la zabburetta. Ammettilo, Luca Montanaro. Oggi non me ne ho fatto doccia, da Damari. Questo sono andato a fare la doccia. Me ne sono fatto oggi. Perché domani ho più tempo per farmela, no? Sicuro che così, se non tanto che Marina ti avrei buttato fuori dalla finestra. Ma io non devo cucare la Marina, devo cucare a casa mia. Ma telefono a mamma tua, lo dico a mamma tua, ti ci porti qui da ricari. Scusa che tu non la doccia, non è che te la fai? No, dipende da cosa faccio. Ma io quello che faccio faccio, fortuna di sì e l'altra no. E non faccio niente, mi sono bugiato. Non me ne faccio. Se faccio cosa, già me la faccio. Capito mi hai? Sto scherzando, me la faccio ogni giorno anche se non faccio niente. Perché studi lo stesso. Ti muovi, fai, cammini. La vostra unia santa di. Tu, mi devi aspettare che siamo al computer con una signorina che stiamo facendo il reso di quella batteria. Sì. Mi tocca fare... Adesso ha stampato un foglio, adesso lo leggo e vedo cosa ci vuole. Passano qui e me la ritirano. Ma qualche mai, ti ha giudito di controllare, chi l'ave, chi le batterie sono diverse, tu no, no. Quella l'avevo ordinata per l'altro boyfriend che mi ho venduto, però l'ho chiamato, l'ho misurata e non andate già bene in manca, se no l'avrei venduto quella batteria più grossa. Hanno sbagliato loro, perché io l'ordine l'ho fatto per il boyfriend UVR5A. E per cosa te l'hanno data? Per il GP3? Non ci sta, è più grande. Ci vuole un pelino per aggiungere, no, al GT3 ci mancano 3 mm all'incasso. Vista, io te l'ho detto, che non sono uguali le batterie. Vabbè, dai, mi assento, ciao, dopo. E va bene, ok. Mario, no, assolutamente, stavo me guardando questa cosa qua, c'ho un altro io qua, c'è scritto TDK DV fanculo Digital Standard 60, poi c'è scritto DV M60 SPLP 8090M. Ah, deve essere uno altro per videocamera. E domani ti ho dato la videocamera, l'avevo regalata, quindi quella che c'avevo io. E cosa me ne faccio? Non ne faccio niente. E poi mi sembra neanche quella lì montava. E neanche questi nastri qui montava, quei nastri grandi, ma montava quelli normali. Nulla, sto appena rientrando che ho fatto la spesa. Ho fatto i pomodori, mi mancavano e il resto. Sono tappiato le sigarette e poi lo spin. Adesso sto guardando questi video, queste cose, queste segreterie telefoniche, doppia cassetta. Queste già le faccio fuori, in piazza d'Italia. Scatola e tutto, l'alimentatore già ce li ho. 30-40 cassette, ti credo che ci abbia molta roba, ci ho buttato poca roba dal garage. Poca roba mi è rimasta, ma che da cosa, che da scrivere, che poi non vale nulla. Queste cose qui, un'antenna di quelle amplificate per casa, e qualche altra cazzata che c'ho. A parte le videocassette, i videoregistratori e i DVD. E già si fanno fuori subito quello, già c'è la richiesta, grazie a Dio, di quella roba lì. Capito? E vabbè, quelli già li vendi tu, li metti su internet e te li fai subito fuori. Io ho di quei telefoni di Motorola, gli 8000, quelli StarTAC, originali funzionanti. Quelli sono vintage, li faccio fuori subito. Ne ho due di quelli, gli altri li avevo tutti regalati. C'è anche il telefonino e il televisore, te lo ricordi? Quel telefonino della... mi sembra che è Motorola, se non mi ricordo male. Che fa anche la televisore. Ah, no, mi sei sbagliando un bel. È un telefono che fa la, vedevi anche la TV. E costava un sacco di soldi, allora a quei tempi lì costava intorno ai 500-600 mila lire costava. Ed è della, te lo faccio, te lo dico subito. È della 3, LG. E ricevi la TV. Si vede la TV analogica. Certo che non la vedo più, già lo so anch'io. Che c'entra quello? Però come telefono è bello. LG fa le fotografie, fa tutto. Va su internet. Ed è la 3. C'ha il monitor, sarà 5-6 pollici, una cosa del genere. È nuovo nuovo. Capito? Ce l'ho qua conservato. Compreso anche quei telefoni della 3, quelli i primi che sono usciti, quelli grandi. Che si vede doppia telecamera, eccetera. Quelli già funzionano tutti. L'unica cosa è la batteria, devo cercare. Se riesco a trovare le batterie dei cinesi, sono a posto. E ne ho un bel po' di roba, non è che non ne abbia voglia. Mi è rimasto il monitor del computer della HD, quello da Samsung, col telecomando. E poi un computer che di mia nipote, che ha detto che non se ne fanno cazzo. Capito? È da aggiustare, ammetto che c'ha problemi alla scheda audio, mi ha detto, boh. No, lo so, è da vedere. Perché il video si vede benissimo, è solo l'audio che ha problemi. Poi magari sono la fesseria, è triste. È solo da vedere, l'ho lasciato da una parte. Tommy! Aspetta che si appiate i bastoncini. No, i bastoncini per le orecchie si ha fregato. Aspetta che che li nascondo. Filippo, non è! Non ne ho più, fiesco a 5 dita. Io sono le bottiglie da 1,5, non è problema. Quelle dell'acqua che vende lo spi. Non ne ho, se no ce l'aveva buttata quella da 5 litri. Ma bello che non ne trovo alcuno interrato. Aspetta un secondo, controllo. No, non era di quelli. Manco no. Aspetta, Mario, io vado a dare le chiavi a cosa, a Pietro. Così apro il garage. Ciucchi ciù, ciucchi ciù, ciucchi ciù.